La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 4 dicembre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Un saluto a tutti coloro che ascoltano la puntata in onda come al solito il sabato mattina e un saluto a tutti coloro che ascoltano la replica del mercoledì. Cari radioascoltatori, in questa puntata andremo a parlare di biotecnologie, o meglio ancora di bioscienze. In particolar modo andremo a descrivere un articolo pubblicato il 19 novembre 2010 su PLOS ONE e all'interno di questo articolo si descrive un esperimento particolare. Sono state inserite delle cellule staminali neurali all'interno di alcuni cervelli di ratti malati, o meglio ancora indotti all'ischemia. E attraverso questo esperimento sono state analizzate alcune cose particolari. Di questo argomento ne parleremo con la dottoressa Lidia De Filippis del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università Milano Bicocca. Buongiorno Lidia. Buongiorno. Lidia, come al solito noi abbiamo 100 parole iniziali per descrivere la puntata. E allora in 100 parole, come nostro solito, ti chiedo di riassumere molto brevemente il contenuto di questo articolo che poi andremo a sviluppare meglio nella seconda parte della trasmissione. A te la parola. Allora, ci proverò cercando di essere il più chiara possibile. Allora, noi lavoriamo con cellule staminali neurali umane da feti abortivi e quello che abbiamo fatto è stato trapiantare queste cellule nel cervello di ratto adulto in un modello animale che è stato ischemizzato 3 giorni prima del trapianto. Quindi questo ratto è stato sottoposto a ischemia globale transiente, in poche parole è mancato un afflusso di sangue al cervello per 10 minuti in tutto il cervello e questo ha causato un danno globale. Quello che noi siamo andati a fare è stato di trapiantare queste cellule a livello dell'ippocampo, questo perché è la zona nella globalità della lesione che viene maggiormente compromessa da questo tipo di lesione. Siamo andati a vedere cosa fossero in grado di fare queste cellule nel tempo. Le abbiamo valutate fino a 6 mesi di distanza e quello che abbiamo visto è stato inaspettatamente non solo che sono state in grado di sopravvivere, ma di migrare in tutto il cervello, secondo dei percorsi, io li chiamo così, dei percorsi come se fossero prestabiliti, cioè loro tendono ad andare innanzitutto nella zona di nicchia, quindi nella zona in cui risiedono le cellule staminali, anche quelle del ratto, e da lì partire successivamente e andare alle zone lese, che sono state in grado di colonizzare. E lo hanno fatto, cosa molto importante, con un trattamento di immunosoppressione transiente, quindi quello che analogamente verrebbe fatto per un paziente trapiantato, in questo caso il nostro paziente era il ratto, e quindi fare sinapsi. Le sinapsi, questo termine complicatissimo, vuol semplicemente dire che queste cellule hanno stabilito dei contatti con le cellule del ratto in modo da ricreare un circuito funzionale che era stato distrutto dall'ischemia. Lidia, ti ringrazio per la descrizione molto completa. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte daremo un attimo un'introduzione degli argomenti della puntata, mentre nella seconda parte, come al solito, andremo ad affrontare espressamente l'argomento della trasmissione. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. To keep. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, siete sempre all'ascolto di Caccia Fotone. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite la radio www.radiocittafugico.it e un saluto a tutti coloro che comunemente ci hanno scaricato tramite il nostro podcast www.cacciafotone.it. Ecco, ricordo che questa trasmissione è distribuita sotto licenza Creative Commons e quindi questo è anche un invito per tutti coloro che volessero a diffonderla nei canali che più desiderano, ovviamente rispettando la nostra licenza d'uso. In questa trasmissione ci stiamo occupando di biotecnologie e bioscienze. In particolar modo stiamo andando a descrivere un articolo uscito il 19 di novembre del 2010 su Plus One e ne stiamo parlando con la dottoressa Lidia De Filippis del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università Milano Bicocca. La prima parte della trasmissione è quella che ormai abbiamo definito come il fotone didattico. Quindi, visto che andremo a affrontare questo tipo di argomenti, diamo un attimo una descrizione degli argomenti generali che stanno dietro al paper che è stato scritto su PLOS. Allora, Lidia, a te la parola. Che cos'è una cellula staminale? Allora, una cellula staminale è quella che comunemente vedrete sempre sui giornali indicata come cellula bambina, cioè una cellula giovane, indifferenziata, vuol dire che non sa ancora cosa deve andare a fare, quindi ha una morfologia che non è chiaramente definita, è piccola, circolare, direi insignificante a vederla così, no? Non sembra abbia nulla di particolare, infatti in teoria non ce l'ha, non ha una funzione specifica nel momento in cui è staminale. In realtà ha intrinsecamente una serie di potenzialità incredibili. Questa è una cellula staminale molto giovane, ma potenzialmente è come un neonato che può sviluppare un carattere qualsiasi o diventare alto, basso, grasso, magro e così via. Seconda domanda. Differenza fra una cellula staminale embrionale e una cellula staminale adulta? Allora, la cellula staminale embrionale viene definita pluripotente, cioè è in grado di dare origine a tutti i tipi di cellule di un organismo, tanto è vero che le cellule staminali presenti nell'embrione sono quelle che poi organizzano tutti gli organi interni, tutti i sistemi, dal cardiocircolatorio al sistema nervoso, e in teoria all'inizio sono abbastanza equivalenti tra di loro, per cui pluripotenti perché danno origine a tessuti diversi. Le cellule staminali nell'adulto invece sono già compartimentate, quindi sono già suddivise relativamente al tessuto da cui originano. Per esempio abbiamo le cellule staminali dell'epidermide che origineranno pelle tutta la vita, così come recentemente, dico recentemente per modo di dire perché ormai sono già 30 anni, ma comunque si sono scoperte quelle del sistema nervoso centrale. Quindi non è vero come si credeva una volta che i neuroni non possono essere più rimpiazzati e che una volta morti è finita lì. Anzi, le cellule staminali le possediamo, sono nelle zone profonde del nostro cervello, questo è quello che attualmente si riconosce nell'umano adulto, e sono in grado, per quanto lo facciano lentamente, magari poco rispetto a certi danni, comunque sono in grado di dare un ricambio continuo al nostro tessuto nervoso. Però c'è da sottolineare che le cellule dell'adulto, staminali dell'adulto, sono multipotenti e non pluripotenti, cioè sono in grado di dare origine ai tipi cellulari che fanno parte del tessuto di cui esse stesse fanno parte al momento. Ecco, a questo punto entriamo già in maniera tangenziale all'articolo di PLOS. Da dove si estraggono le cellule staminali neurali nell'uomo? Le cellule umane neurali, detto così, dobbiamo dividerle innanzitutto per età, nel senso che possiamo parlare di cellule staminali neurali umane del feto, dell'embrione o dell'adulto. Per quanto riguarda l'adulto, quindi diciamo come noi direi, perché direi che siamo adulti, no? Mi sa che ormai siamo un po' troppo avanti. Allora, le zone attualmente riconosciute come nicchie staminali nel cervello sono la zona sottoventricolare, più o meno ad altezza di metà cervello, però non in profondità, e la zona sottogranulare del giro dentato dell'ippocampo. Complicatissimo a dirsi, ma è molto semplice, in realtà sono anche molto vicine, sono tutte due zone profonde. Mentre invece se si va indietro verso il feto e verso addirittura l'embrione ancora di più, chiaramente queste zone sono molto potenziate, sono maggiori, hanno un ricambio più veloce, perché nell'embrione o un po' più avanti anche comunque nel feto il processo della crescita è molto più attivo, quindi sono cellule potenzialmente in grado, hanno un potenziale proliferativo molto più elevato. E dove sono? Sono in generale nella zona del cervello, che è molto meno compartimentata che non nell'adulto, dove è già definito. A livello del feto c'è una zona che è simile a quella che è la zona sottoventricolare, ma non è così definita, e che si chiama regione telencefalica diencefalica, nel senso, adesso non voglio entrare nello specifico, ma è sempre localizzato nella testina del feto, in quella zona lì, ecco, per intenderci. Lidia, in questi ultimi 30 anni le conoscenze su questo tipo particolare di cellule sono aumentate a dismisura. Prima si pensava fondamentalmente che i tessuti neurali non potessero svilupparsi più dopo un certo periodo di tempo, oggi invece sappiamo che la cosa è in continua evoluzione. In che modo le nuove conoscenze che si stanno acquisendo in questi ultimi anni possono cambiare la nostra visione di come funziona il cervello e quindi come si può curare il cervello? Allora, innanzitutto c'è da dire che ci si crede di più, nel senso che all'inizio c'era molto scetticismo, perché ormai era una vita che si professava la non proliferabilità del tessuto nervoso, cosa che adesso non è più, è stata non solo smentita, ma praticamente oggi come oggi vengono ritenute una delle principali, se non la principale risorsa per qualsiasi patologia neurodegenerativa. Io parlo per quanto riguarda le neurali, ma assolutamente sappiamo bene che le staminali ematopoietiche vengono già utilizzate da più di 10 anni per quanto riguarda i trapianti di midollo osseo, così come le cellule staminali epidermiche vengono usate per curare i pazienti affetti da ustione anche di terzo grado, ed essi stessi si preleva un lembo, basta un centimetro di pelle di staminale della pelle per rigenerare metri e metri di pelle da poi applicare al paziente, quindi una forma di trapianto addirittura autologo, e viene fatto, mi sa, proprio dalle vostre parti, perché lo fa il dottor De Luca. Per quanto riguarda invece le staminali neurali, chiaramente la procedura è molto più lunga, molto più difficile anche da effettuare, banalmente anche per un semplice motivo: nel paziente dove le si va a prelevare queste cellule? Ok, sono nella zona profonda del cervello, ma non si può pensare di prelevare delle cellule dal cervello di un paziente, perché l'intervento di prelievo diventa ancora più invasivo di quello applicativo. Allora si deve ricorrere a delle risorse alternative, per cui da qui si è proposto le staminali embrionali. Le staminali embrionali presentano un problema e non da trascurare, quello per cui è stato già visto ampiamente che si sono dimostrate essere tumorigeniche. Al momento non si è ancora riusciti ad arginare questo limite, che è molto forte. C'è da dire anche un'altra cosa: nell'embrione le cellule staminali, che hanno queste potenzialità incredibili, è giusto che le abbiano perché devono rigenerare un intero organismo. Pensiamo però che sono soggette a una serie di segnali da parte delle altre cellule, da parte dell'ambiente stesso in cui si trova l'embrione, che sono ben diversi da quelli in cui si vengono a trovare delle cellule staminali nell'adulto. Come dire, è un po' come parlare una lingua diversa, per cui se loro vengono impiantate in un paziente, questo non si sa, ma è anche possibile che interpretino i segnali del paziente come un segnale sbagliato. E quindi, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non solo come efficacia terapeutica non si sono dimostrate sinceramente eccezionali, ma oltretutto, nella maggior parte dei casi, sfortunatamente hanno originato dei teratocarcinomi, che sono dei veri e propri tumori, quindi si cura una cosa e purtroppo si crea altro danno. Allora, un'alternativa plausibile, andando nella cronologia, nella scala cronologica del tempo, per andare un po' più avanti, sono le staminali fetali, che al momento al professor Vescovi, col quale collaboro, sembrano la soluzione migliore, ed effettivamente si sono dimostrate tali. Sono delle cellule prelevate non proprio dall'embrione, quindi nei primi stadi di sviluppo, ma da un feto. Oltretutto c'è da dire un'altra cosa: per l'embrione, per l'utilizzo degli embrioni, c'è stata una polemica che è tuttora in atto e che è giustificata pienamente dal fatto che un embrione non venga abortito, deve essere abortito volontariamente. Nel caso di un feto invece, le settimane alle quali è presente il feto sono le settimane alle quali usualmente viene effettuato il cosiddetto aborto terapeutico, per cui se la madre ha un problema che non è necessariamente del feto, cioè il feto magari è sano, però magari c'è un distacco della placenta, la mamma sta poco bene sfortunatamente, abortisce. Cosa succede? Questo feto viene preso e letteralmente buttato nel cestino, quindi è materiale di scarto. Ora, con questo materiale di scarto, prelevare delle cellule staminali vuol dire potenzialmente curare non decine, centinaia di pazienti. E qual è la differenza rispetto alle embrionali? Che sono meno diciamo proliferative dal punto di vista della coltura in laboratorio, ma allo stesso tempo non hanno lo stesso potenziale tumorigenico. A dire il vero, noi abbiamo dimostrato che assolutamente non hanno mai generato tumore in qualsiasi animale, modello animale di patologia, sano, animale immunodepresso, non hanno mai dato origine a tumore, quindi sono cellule assolutamente non tumorigeniche. E viceversa, in diversi modelli abbiamo visto avere una notevole efficacia terapeutica. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un secondo pezzo musicale, poi torniamo in studio e finalmente nella seconda parte della trasmissione, come abbiamo già annunciato, andremo a esplorare meglio il contenuto dell'articolo uscito su PLOS qualche giorno fa e andremo a capire come è stato svolto e quali sono i contenuti del vostro esperimento. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Bentornati in studio, cari radioascoltatori, all'interno di Calciofotone. Come già descritto nella prima parte della trasmissione, in questa puntata ci stiamo occupando di un esperimento, o meglio ancora di un articolo uscito il 19 novembre 2010 su PLOS ONE, e all'interno di questo articolo viene descritto un esperimento particolarissimo. Sono state inserite all'interno di alcuni cervelli di ratto malati di ischemia delle cellule staminali neurali e, semplificandolo al massimo, queste cellule staminali neurali avrebbero curato il cervello dei ratti malati. Di questo argomento ne stiamo parlando con la dottoressa Lidia De Filippis del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università Milano Bicocca. Lidia, a questo punto a te la parola. Sei una degli autori di questo paper. Come è stato svolto questo esperimento e soprattutto quali sono i risultati a cui siete arrivati? Allora, quello che è stato fatto è stato di utilizzare questo modello di ratto adulto, che in teoria riproduce in laboratorio il paziente, lesionato da un'ischemia, ischemia globale. Quindi quello che un po' in alcuni pazienti accade in seguito a danni di tipo cardiocircolatorio, per cui ci sono persone che hanno un sistema cardiocircolatorio non funzionante al massimo dell'efficienza e sono soggetti a delle microischemie di cui assolutamente non si rendono conto. Poi a una certa età incorre un livello di demenza che diventa progressivo, per cui dopo l'Alzheimer è la seconda causa di demenza senile negli umani. Questo danno, che è un danno che colpisce a livello globale del cervello, viene riprodotto nel ratto mediante un'occlusione delle carotidi. In poche parole, si fa mancare l'afflusso di sangue al cervello per 10 minuti e questo provoca un danno proprio globale nel tessuto, che non è un buco, non è una lesione specifica, non è quello che accade nell'umano come l'ictus, ok? È un danno globale, per cui quello che noi eravamo intenzionati a fare era di vedere cosa fossero in grado di fare le nostre cellule una volta impiantate in un punto specifico di questo cervello globalmente lesionato. Qual è stato il punto scelto? È stato l'ippocampo, perché è la zona che comunque di tutto è maggiormente lesa all'inizio di questo tipo di danno. E nemmeno farlo apposta, infatti, l'ippocampo è quello che è proprio deputato al controllo dei meccanismi cognitivi e della memoria, per cui ne viene di seguito che in un danno del genere, se si ha demenza senile, è proprio perché quello ad essere maggiormente compromesso è l'ippocampo. Ora, abbiamo impiantato le cellule in prossimità dello strato dell'ippocampo responsabile di questo e abbiamo valutato a mesi di distanza cosa accadesse. Questo applicando un'immunosoppressione transiente, in poche parole trattando questi ratti come se fossero dei pazienti e quindi immunosopprimendoli soltanto per poco tempo e poi vedendo se le nostre cellule, pur essendo umane in un ratto, quindi molto strano, ma riuscissero a sopravvivere nel tempo. Ci siamo riusciti. La cosa davvero interessante, Lidia, interessante ovviamente per noi che l'ascoltiamo, ma non per te che la vivi tutti i giorni nel tuo laboratorio, è che queste cellule staminali neurali vanno curiosamente nel posto dove c'è effettivamente la lesione. Questa è la cosa particolare. Sì, perché questo tra l'altro è stato documentato non da noi, ma anzi è ampiamente documentato da lavori di altri gruppi in tutto il mondo, per cui fortunatamente, questo è molto importante, se queste cellule vengono trapiantate in un cervello sano, ma fanno molto meno che non in un cervello malato, e questo perché la stessa lesione richiama le cellule in modo tale che, perché sente il bisogno di nuove cellule che vadano a rigenerare il tessuto che sta morendo. Ma questo lo facciamo anche da soli. Nei soggetti che subiscono delle lesioni lievi, probabilmente molti di noi subiscono delle lesioni e non lo sanno e non lo sapranno mai, perché le proprie cellule rispondono direttamente senza render conto. E quindi tanti dei danni noi li recuperiamo senza nemmeno rendercene conto. Cosa succede quando il danno supera una certa soglia? Bisogna intervenire dall'esterno, per quello che in patologie neurodegenerative serie le cellule staminali endogene, cioè proprie dell'individuo, non bastano più e bisogna ricorrere a risorse esterne, ma anche a livello endogeno, cioè anche a livello proprio, è la lesione che fa da polo di richiamo, da calamita per le cellule staminali, per dire ok, adesso muoviti per piacere, fanne più che puoi e mandamele qui perché ce ne ho bisogno. Ecco, questo è il discorso base, che poi aiuta chiaramente anche nei trapianti. E questo è già noto perché anche nei pazienti leucemici funziona in questo modo. Le cellule vengono trapiantate per infusione in endovena, ma in realtà dov'è che se ne ha bisogno? Nel midollo osseo. E loro come fanno a sapere dove andare? Ecco, questo è il meccanismo. A questo punto, Lidia, per essere sempre più chiare, andiamo a guardare la figura 2 del vostro lavoro, che è già disponibile sul sito www.cacciafotone.it. Come al solito, sul nostro post c'è un'immagine piccola, bisogna cliccare, si apre un'immagine più grande, e quell'immagine più grande è quella che effettivamente andremo a discutere ora. Si vede effettivamente cosa combina la cellula staminale neurale all'interno della regione periventricolare posteriore e all'interno dell'ippocampo, e si descrive come si comporta a 14 giorni, a 30 giorni e dopo i 30 giorni. Il comportamento, per coloro che sanno interpretare questa immagine, è molto interessante, quindi a te di nuovo la parola. Che cosa descrive, che cosa ci rappresenta questa immagine? Sì, perché le cellule sono state impiantate. Allora immaginiamo il CA1 come se fosse una specie di, facciamo così, una pasta sfoglia, immaginiamo una specie di torta, il nostro cervello come una torta, no? Abbiamo un filo di pasta sfoglia e sopra e sotto abbiamo crema al cioccolato e crema pasticcera. Per intenderci, il nostro strato di pasta sfoglia è quello della lesione. Noi abbiamo messo le nostre cellule nella crema, sia quella pasticcera che quella al cioccolato, in poche parole, e siamo andati a vedere cosa fossero in grado di fare e se soprattutto fossero in grado prima o poi di andare nella pasta sfoglia. Allora, all'inizio cosa hanno fatto? Sono migrate lungo sia nello strato di crema al cioccolato che in quello di crema pasticcera, quindi sono diffuse in questa zona, non solo, e sono andate nella zona di nicchia staminale, come se andassero alla base della teglia da forno, ok, sulla base della teglia da forno, e da lì dopo tanto tempo ripartissero per andare finalmente allo strato di pasta sfoglia, cosa che noi non ci aspettavamo. Praticamente hanno fatto un percorso molto lungo nell'arco di 4 mesi, in cui all'inizio, quello che vediamo nella figura 2, quindi a 14 e 30 giorni, è stato di migrare nelle due creme sostanzialmente e di andare soprattutto alla zona di nicchia, dove erano le staminali del ratto, praticamente come se loro riconoscessero le loro compagne e quindi andassero innanzitutto lì. E poi, dopo tanto tempo, e questo nelle figure successive, sono state in grado di essere richiamate dalla lesione e di andare finalmente a raggiungere lo strato leso, quindi la nostra pasta sfoglia, per tornare alla nostra torta. Lidia, dopo questa succulenta descrizione, ti voglio chiedere quanto tempo sopravvivono queste cellule staminali umane neurali inserite all'interno del cervello malato dei ratti. Allora, quello che noi abbiamo visto è stato che queste cellule sono sopravvissute fino a 6 mesi, ma perché noi non siamo andati oltre col tempo, eh? Molto probabilmente sarebbero sopravvissute molto di più. Il problema è che giustamente il ratto era un tantino grandicello, era quasi grande come un gatto, e quindi a quel punto per le procedure sperimentali diventava problematico portarli più avanti. Quello che abbiamo ritrovato a 6 mesi di distanza è stato che queste cellule sono migrate in tutto l'emisfero e in più hanno iniziato addirittura a colonizzare l'emisfero opposto. Questo in sostanza cosa ci dice? Che impiantare queste cellule in uno o addirittura più siti di un cervello leso permetterà alle cellule, basterà alle cellule per migrare esattamente dove devono essere richiamate. In questo caso la lesione era una lesione globale di diverse aree, per cui loro si sono diffuse in diverse aree. Molto probabilmente, se noi abbiamo bisogno di farle arrivare in un sito specifico, questo esperimento ci dice che noi possiamo impiantarle in un sito, tra virgolette, più comodo, più facile per il trapianto, ciò nonostante permettendo loro di arrivare comunque dove devono arrivare. Lidia, nel fuori onda mi hai anche detto che questo procedimento, questa pratica, cioè il contenuto dell'articolo di cui abbiamo discusso nella trasmissione, è già diventato o sta per diventare una pratica clinica, che è la cosa più interessante di tutte. Il professor Vescovi ha istituito una banca di cellule staminali, la Biobanca, a Terni, presso l'ospedale Santa Maria, con l'aiuto di diverse fondazioni che noi ringraziamo, dalla Borgonovo alla Fondazione di Cellule Staminali, a Neuroton. Queste fondazioni ci hanno permesso di sovvenzionare degli studi, anche il Ministero della Sanità chiaramente, per cui abbiamo istituito questa Biobanca a Terni, dove queste cellule da feti abortivi, ribadisco, abortivi terapeutici, vengono prelevate, espanse in laboratorio e coltivate già per essere poi utilizzate nei pazienti. Quali saranno i primi pazienti? Quello che cerchiamo adesso di avviare è il trial clinico sui pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, per cui queste cellule verranno iniettate nel midollo spinale di questi pazienti, si spera il prima possibile. Stiamo già facendo tutte le certificazioni che vengono richieste per un accurato trial clinico sui pazienti. Lidia, si sta concludendo questa trasmissione, quindi mi appresto a farti l'ultima domanda, che è la domanda più personale di tutte, la domanda che ormai abbiamo battezzato come la domanda zainetto. Quale delle tante esperienze metteresti nel tuo zainetto da ricercatore se dovessi ricordare una cosa delle tante che hai vissuto dal momento in cui è cominciata questa ricerca al momento in cui questa ricerca è finita su Plus One? Io ricorderei la sorpresa nel vedere queste cellule andare intanto nella nicchia, cioè il fatto di riuscire a vedere queste cellule tornare nel luogo che era di origine, ma fondamentalmente non è loro vengono da un feto umano, eppure nel ratto hanno trovato la stessa strada. E la sorpresa nel vedere come fossero in grado di sopravvivere anche senza immunosoppressione a distanza di tempo, e oltretutto di limitare non solo il danno a livello del tessuto nervoso, perché sono in grado di fare sinapsi, cioè di fare dei neuroni veri e stabilire dei contatti con le cellule del ratto. Questo è una potenzialità incredibile, perché si tratta di cellule umane che stabiliscono contatti funzionali con cellule di ratto, figuriamoci umane in uomo, e anche di limitare l'infiammazione, che è una delle cause, ma non solo nell'ischemia, ma in tantissime patologie neurodegenerative, che è all'origine del processo stesso di neurodegenerazione e dell'avanzamento anche, del peggioramento dello stesso nel tempo. Quindi devo dire, sono state queste tre sorprese, una quella di trovare la strada, l'altra quella formare dei neuroni con un ratto, quindi con cellule di ratto funzionali, e la terza quella di vedere che sono in grado anche di ridurre l'infiammazione. Secondo me hanno degli effetti straordinari, veramente c'è da sperare nel prossimo futuro. Lidia, a questo punto, con questa tua ultima risposta, si conclude questa puntata settimanale di Cacciafotone. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fujiko. L'appuntamento è, come al solito, settimana prossima, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Ciao Lidia e in bocca al lupo. Anche a voi, ciao. Grande ciao.